un impatto notevole, come possiamo immaginare. Tutto quello che noi vediamo chiaramente sulle nostre famiglie, le case, le imprese, i nostri contesti quotidiani è ovviamente moltiplicato per molte unità quello che vediamo a livello comunale. Il costo delle utenze subirà, ha già subito sull'anno 2022 che deve ancora terminare e in previsione del 2023 subirà ancora di più un notevole aumento e incremento che ovviamente riguarda sia l'energia elettrica che il gas. Noi per quest'anno avevamo stabilito un aumento entro fine 2022 di circa 15-16 milioni di euro in più rispetto agli anni, all'anno precedente. Per la previsione del 2023 parliamo di un incremento ben maggiore che ad oggi non possiamo dare certezza di quanto si attesterà, perché chiaramente, come vedete, gli aumenti ogni giorno cambiano e purtroppo mai migliorano, e quindi ad oggi ci attesteremo stiamo tra un 25-28 milioni di euro a crescere solo per le utenze che riguardano gli edifici comunali, ma che può assolutamente aumentare e che prevediamo purtroppo non diminuirà. A questo si aggiunga, riguarda a margine le utenze, che poi c'è tutti i costi dell'inflazione sui servizi in appalto esterno e anche l'aumento dei costi cantieri, quindi approvvigionamento materiali. Quindi insomma siamo davvero a dei livelli che ci muoviamo tra i 30 milioni di euro di aumento e circa 60-70 sommando tutto, quindi chiaramente su un bilancio del Comune di Bologna che pure è solido, è chiaro che avrà un impatto molto molto importante. Negli ultimi decreti del governo uscente erano previste delle risorse, sono arrivate e immagino non siano sufficienti? Sì, in generale diciamo che il governo ha messo in campo prevalentemente misure per frenare l'inflazione e anche la speculazione in parte. Per quanto riguarda contributi diretti ai comuni sul 2022 c'è stato poco, ma comprensibilmente con la situazione generale, e è chiaro che se però non arriveranno delle misure a sostegno anche di famiglie e imprese delle nostre comunità, sia di carattere nazionale che delle misure sovranazionali per frenare questo aumento incontrollato ormai ed incontrollabile, quindi di conseguenza imprevedibile, e una mancata previsione per il bilancio sappiamo quanto sia determinante, è chiaro che gli enti locali da soli, che sia a livello comunale a livello regionale, non ce la possono fare. Siamo dentro un sistema globale che comprende il sistema paese, il sistema Europa. Questi sono gli effetti e le conseguenze di qualcosa di ben più grande di noi, che sappiamo aver luogo in ambito internazionale e mondiale. Quindi nasconderci dietro un dito dicendo riusciamo a farcela da soli non sarebbe oggettivamente possibile, neanche preventivabile. Noi puntiamo assolutamente a chiudere il bilancio del comune di previsione del triennio 23-25 entro il 31-12, come abbiamo sempre fatto in questi anni, perché questo ci consente di far partire la macchina amministrativa fin dal 1 gennaio e di non andare in esercizio provvisorio. È l'impegno che ci siamo presi, che si è preso il sindaco, che ci siamo presi come giunta, e gli uffici stanno facendo un lavoro tenace, importantissimo, per questo li ringrazio. È chiaro che questo è solo il primo passo, dopodiché bisogna che noi troviamo la quadra sui numeri per quanto riguarda le utenze, e per questo ci sarà sicuramente bisogno anche di un aiuto che arrivi dal di fuori. Il bilancio del Comune di Bologna è solido, ma se la situazione dovesse continuare così, poi bisognerebbe anche utilizzare le leve a disposizione e quindi eventualmente in un futuro anche rivedere alcuni servizi? Allora, per il momento noi le leve su cui non agiremo sono la leva fiscale, che a Bologna dirlo sembra scontato, e per fortuna dico io, nel senso che non l'abbiamo mai aumentata negli ultimi anni, quelli che sono i contributi, le leve fiscali comunali. È chiaro che questo lo possiamo già prevedere per il 2023, quindi non aumentare il prelievo fiscale nelle tasche delle nostre cittadine e dei nostri cittadini, sui quali chiaramente poi si producono tutti gli effetti di cui abbiamo parlato prima, e anche non andare a aumentare le rette per i nostri servizi. È chiaro che noi cercheremo di non tagliare, ma non possiamo garantire ad oggi che nel corso del 2023 non dovremo mettere mano a qualcosa nel momento in cui i costi delle utenze continueranno ad aumentare. Cioè, noi oggi lavoriamo su un bilancio di previsione che chiaramente sconta il fatto che, ripeto, prezzo di energia e gas ogni giorno, varia e non varia mai in misura costante e regolare, quindi è molto difficile anche per i nostri uffici, per quanto bravi e preparati, fare un bilancio alla virgola, ecco, da questo punto di vista rispetto agli aumenti sul 2023. Quindi mettiamo in cantiere l'approvazione entro il 31/12, non aumentiamo la pressione fiscale, riusciamo a farlo grazie anche alla lotta all'evasione stringente di questi anni e che ha prodotto ottimi risultati, e ovviamente grazie anche a tutti i riequilibri che sono stati fatti e l'utilizzo dell'avanzo, anche quello del 2022 che è stato corposo, e però è chiaro che vedremo sul 2023 se e quanto riusciremo a tenere la barra dritta tenendo fermi tutti questi punti. I primi due che ho detto senz'altro, se ci sarà bisogno di mettere mano ad alcuni tagli, che magari semplicemente vuol dire anche ragionare rispetto ad alcuni risparmi, no? Sia tutto quello che riguarda l'efficientamento energetico, che anche penso all'ultimo decreto cosiddetto Cingolani del governo, e abbassare di un grado il riscaldamento, insomma, per affrontare l'inverno alcune misure le dobbiamo mettere in campo, perché la coperta è chiaro che se la tiri da una parte non ce l'hai poi dall'altra. E stiamo tutti vivendo questa situazione, anche la cittadinanza bolognese, che è sempre molto puntuale sia nei pagamenti che nella comprensione di queste dinamiche. È chiaro che dovremmo tutti darci una mano, per cui, come ha già detto ad esempio il mio collega assessore Ara, se si tratta di mettere un maglione in più a scuola, o lo dico io, una felpa in più per fare attività fisica all'interno di una palestra, credo che questo stia dentro ciò che in questo momento possiamo mettere in campo per non arrivare a misure di chiusure. Chiaramente in questo caso non parlo delle scuole, che è un servizio obbligatorio, ma ad esempio in alcuni orari degli impianti sportivi o delle piscine, che noi per il momento, anche grazie alla collaborazione dei gestori, stiamo scongiurando.